Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Buona domenica, buon pomeriggio amici di Radio 24. Ben ritrovati a questo nuovo numero di Strade e motori. Oggi puntiamo su due elementi cardine nel nostro programma. Puntiamo molto sul risparmio e puntiamo anche sul rispetto, dove per rispetto intendiamo rispetto per l'ambiente. Risparmio sul carburante, grazie ai consigli che emergono da una serie di test di cui parleremo, e rispetto per quanto riguarda l'ambiente, risparmio sulle emissioni nocive, grazie ad un software che vi presenteremo oggi molto interessante. Parleremo anche di concessionari e del mercato in questo inizio di 2010 così complicato. Partiamo proprio da qui. Dopo i primi tre mesi dell'anno caratterizzati dagli strascichi positivi della chiusura del 2009, l'ultimo periodo che ha avuto gli incentivi e quindi un notevole numero di immatricolazioni, il mese di aprile, lo sapete, ha fatto segnare per quanto riguarda il mercato dell'auto un meno 16% di immatricolazioni di nuovi veicoli, 15,6% in meno per la precisione rispetto al 2009. Un argomento che merita sicuramente un approfondimento e per questo che abbiamo in collegamento diretto con noi il direttore del centro studi Fleet and Mobility, Pierluigi Del Viscovo. Buona domenica Del Viscovo, grazie per essere con noi. Buona domenica a lei e ai radioascoltatori. E i numeri sono abbastanza così preoccupanti, no? Il 2010 era iniziato benino e invece adesso quello che molti temevano si sta verificando. Sì, si sta verificando quella flessione perché gli incentivi hanno anticipato le vendite in qualche misura. Però devo dire che l'anno, secondo le nostre stime, chiuderà pur segnando un calo del 25% da adesso fino alla fine dell'anno. Io credo che riusciamo ad avvicinarci al 1.900.000 immatricolazioni quest'anno, che non è un gran risultato, ma certamente non è una tragedia, non è quel 1.700.000-1.800.000 che forse ci si poteva aspettare qualche tempo fa. Mentre invece penso che andrà un po' peggio l'anno prossimo, perché è un anno dove oggettivamente non ci saranno, almeno alla luce dei fatti di oggi, non ci saranno aiuti di Stato, non ci saranno incentivi, e quindi credo che questo 2011 sarà l'anno più basso, diciamo, di questo ciclo, insomma, di crisi del mercato, che poi dovrebbe risalire verso i 2 milioni nel 2012, insomma, secondo le nostre stime. Poi sa, questi sono numeri che comunque poi sono soggetti alle pressioni commerciali delle case, quindi vedremo, insomma, come andrà, però più o meno l'andamento della domanda, quindi dei cittadini, dovrebbe dar luogo a queste dinamiche, a questi trend. A proposito di case, come le case costruttrici stanno provando a dare una scossa un pochino al mercato? È l'atteggiamento che riscontrate più aggressivo nei confronti del cliente o invece ancora siamo alle fasi di studio? Sì, guardi, allora, intanto dobbiamo premettere che c'è in giro una domanda di prodotto a buon mercato. Tenga conto, perché oggettivamente, insomma, c'è una fase di crisi, tenga conto che c'è pochissimo usato oggi in giro, perché avendo venduto tante macchine a fronte di rottamazione è chiaro che le concessionarie non hanno ritirato usato dal mercato, e quello che noi stiamo vedendo e che prevediamo che aumenti nel prossimo futuro è il ricorso ai chilometri zero da parte delle case, che sarà probabilmente anche una forma di risposta a questo bisogno della gente di acquistare auto a prezzi molto molto bassi, molto convenienti, quindi sicuramente riprenderanno i chilometri zero, che potrebbero ovviamente modificare anche un pochino questi numeri che noi abbiamo stimato, insomma, quindi sicuramente nel breve una ripresa dei chilometri zero. In generale questo strumento di vendita, il chilometro zero, piace al pubblico italiano, no? Anche negli anni scorsi è stato parecchio diffuso. Sì, ma guardi, è uno strumento che poi alla fine non è molto distante culturalmente dalla logica dell'outlet, dalla logica dei saldi di fine stagione, insomma, che ci sia un orientamento a fare degli acquisti più convenienti, tra virgolette, degli affari, è una cosa che c'è. Poi diciamo la verità, insomma, c'è un passaggio di proprietà in più, ma a parte questo, insomma, il prodotto è quello, insomma, quindi il cliente l'ha capito e c'è chi si rivolge decisamente a questo mercato qui. È un terzo prodotto oramai, insomma, con tutte le dignità che secondo me hanno tutti i prodotti, insomma, nessuno ci rimette, nessuno... Certo. Vengono venduti a prezzo più basso, è un modo anche per le case per fare offerte, per far lavorare le fabbriche, insomma, ovviamente riducendo il prezzo, insomma, è la legge del mercato, non mi pare nulla di scandaloso. Del Visco, nella seconda parte di Strade e Motori approfondiremo il tema concessionari d'auto che stanno vivendo un periodo parecchio particolare. Anche secondo le vostre analisi, alla fine sono loro tra gli attori del sistema, come dire, quelli che ci stanno rimettendo un pochino più degli altri? Ma guardi, sì, sicuramente le concessionarie stanno soffrendo perché hanno delle politiche comunque molto basate sulla vendita del nuovo e su margini molto bassi, insomma, sulla vendita, per cui è chiaro che andare sotto anche di un 10%, 15% per loro significa passare da un pareggio, da un piccolo margine a una perdita, insomma, in termini di profitti. Tuttavia, guardi, io credo che ci sia all'orizzonte una nuova ondata di ristrutturazione delle reti automobilistiche, perché è evidente che questo sistema di distribuzione che c'è oggi si è rivelato troppo fragile di fronte a un mercato che è stato tenuto un po' artificialmente sopra i 2.2 milioni, 2.3 milioni per 10 anni, ma grazie a chilometri zero, incentivi un anno sì e l'altro pure, eccetera. È un mercato che fisiologicamente è più basso e sicuramente le reti vanno riadattate per questo. Tuttavia, mentre 10 anni fa, quando sono state ristrutturate le reti, c'era un modello guida per cui si diceva vogliamo meno concessionari ma più grandi per fare economie di scala, efficienza, eccetera. Oggi stiamo vedendo invece che in molti casi sono proprio concessionari più grandi che sono in sofferenza, per cui non si è delineato un modello di riferimento di concessionaria, mentre probabilmente una cosa che pare abbastanza non discutibile è che le concessionarie debbano avere nel futuro meno strutture pesanti, meno costi fissi di struttura e essere invece molto più dinamiche e agili per uscire dal salone e andare incontro ai clienti con vendite esterne, con eventi anche di weekend, insomma, nei centri commerciali, con, insomma, essere un pochino più presenti tra la gente con una struttura di costi molto più variabili che non fissi. Un'analisi molto interessante e della quale ringraziamo Pierluigi Del Viscovo, direttore del Centro Studi Fleet and Mobility. Grazie ancora, buona domenica. Grazie. E a presto. Buona domenica a lei, arrivederci. Parliamo spesso di carburanti qui a Strade Motori, di quanto un corretto utilizzo dell'auto possa aiutare l'utente, l'automobilista, a risparmiare anche sul prezzo dei nostri viaggi sulle vetture. Questa settimana ci facciamo aiutare da Decra Revisioni, che ha condotto in Germania un test drive molto interessante, un test drive comparativo su 3 modelli diversi di auto, sia nella versione standard che in quella con allestimenti dotati delle cosiddette ecotecnologie. E allora salutiamo subito il nostro ospite, che è Andrea Dalisca, direttore generale di Decra Revisioni Italia. Buona domenica, Dalisca, grazie per essere con noi. Buona domenica anche a lei. Partiamo un po' dai dettagli di questo test, che è molto interessante e che dà dei risultati da approfondire. Innanzitutto, quali auto avete analizzato? Abbiamo analizzato 3 modelli tedeschi, un Opel Insignia nella versione EcoFlex 2000 CDTI e nella versione corrispondente standard 2000 Ecotec. Poi una Mercedes classe S nella versione S400 ibrida e nella versione S350, infine una Volkswagen Passat 1600 TDI Blue Motion e nella versione normale 2000 TDI. Quindi macchine tedesche ma ampiamente presenti sul mercato, sì, esatto, italiano. I risultati allora di questo test? Allora, i risultati sono stati condotti, intanto è stato fatto un test sul cosiddetto circuito misto, un percorso circolare di 114 km in traffico cittadino, periferia e autostrada, a Stoccarda, che è una città perfetta con forti saliscendi. I risultati sono stati sostanzialmente questi. Questi modelli ecotecnologici contribuiscono a ridurre il consumo fino a un 7,7 7%. I risultati sono un po' sotto quello che dicono i costruttori, cioè si consuma un pochettino di più rispetto a quanto dichiarato, ma è proprio marginale, e quindi il risparmio si va da uno 0,3 litri a 0,7 litri ogni 100 km a seconda dei modelli. Può apparire molto poco per il normale automobilista, di fatto sono dei risultati decisamente buoni per chi conosce un pochettino la, la progettazione dei veicoli. Non è semplice ridurre di un punto percentuale il consumo. Mi sembra di leggere tra le righe di questa analisi che ad esempio il sistema start and stop è un sistema decisamente affidabile oggi, no? C'è la possibilità di spegnere il motore e poi riaccenderlo nel momento in cui ci si rimette in moto, ad esempio ad un semaforo, è così? Esatto, si sta diffondendo in tantissimi modelli, è affidabile, è sicuramente molto utile, soprattutto nel traffico cittadino, ed è un po' una logica, per fare un paragone, del spegnere tutti gli apparecchi che sono in stand-by per risparmiare energia elettrica in casa. Ecotecnologia dunque che non basta, a fianco a questa strumentazione dobbiamo metterci anche del nostro, no? Esatto. Dobbiamo imparare ad utilizzare il veicolo al meglio. Voi che tipo di consigli date? Esatto, intanto non basta, ma aiuta, e abbinata a una guida economica si ottiene fino a un 20%. Allora, intanto una cosa che magari non viene spontanea, accelerare rapidamente e cambiare subito, cioè dare subito gas quando si parte, arrivare a tre quarti della corsa del pedale, quindi 75%, e cambiare la marcia quando si arriva ai 2000 giri. L'obiettivo è quello di, appunto, dando gas, raggiungere il prima possibile la velocità desiderata e mantenerla con la marcia più alta. Un altro aspetto è adeguarsi al traffico, quindi se il traffico è abbastanza regolare, evitare mosse e scartamenti improvvisi, accelerazioni e brusche frenate, sono tutte azioni che portano a un aumento dei consumi, anche se si ha fretta, ed è dimostrato che soprattutto in città non ci sono grandi risparmi di tempo, ma sicuramente grandi consumi ulteriori di carburante. Abbiamo detto il blocco dell'iniezione, i cosiddetti cut-off. Un altro aspetto interessante è, se si è in strade in forte pendenza, lasciare completamente l'acceleratore, non mettere il cambio in folle e quindi lavorare con i freni, ma lasciare il motore intorno ai 1500 giri e sopra, e a questo punto il consumo è praticamente zero, perché viene chiuso l'afflusso di carburante. Un altro aspetto importantissimo è dato dal controllo dei pneumatici. La pressione corretta dei pneumatici è uno dei fattori di maggior risparmio o di maggior consumo di carburante. Si stima che uno 0,5 bar in meno o in più aumentino il consumo di carburante del 5%, il che non è poco. Quindi si rischia di andare a vanificare tutte le ecotecnologie che oggi mettono a disposizione i costruttori se i pneumatici non sono gonfiati propriamente. E al di là dell'aspetto consumo, il pneumatico è quello che ci tiene incollati al terreno ed è la cosa più importante, tra le cose più importanti, tra le componenti più importanti della vettura in termini di sicurezza. E noi ne abbiamo parlato spessissimo qui a Strade Motori, ed è una campagna che portiamo avanti da tante e tante settimane. È stato davvero un piacere conversare con Andrea D'Alisca, direttore generale di Decra Revisioni Italia, soprattutto per quest'ultima parte, con questi consigli pratici davvero molto utili ed interessanti. Grazie D'Alisca, buona domenica e a presto. Grazie a lei e buona domenica. Strade e motori. Strade e motori. Iniziamo la seconda parte di Strade e Motori di questa settimana, approfondendo un po' il tema relativo al mondo dei concessionari. Cerchiamo di saperne qualcosa in più grazie al direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Parliamo molto spesso di mercato, di numeri qui a Strade e Motori. Non abbiamo ancora però affrontato, e vogliamo farlo oggi, l'argomento concessionari, che sono tra i primi operatori del settore a risentire della crisi, molto probabilmente. Per farci aiutare un pochino da questo punto di vista, noi chiamiamo in causa il nostro direttore preferito, il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore. Grazie, buona domenica a voi. Che aria tira nei piazzali e all'interno delle strutture dei concessionari in questo momento, direttore? Ma tira una brutta aria, perché i concessionari sono stati indotti dalle case a fare degli investimenti molto importanti, diciamo, nel periodo che ha immediatamente precedente innanzitutto la crisi, e quindi la crisi è arrivata quando molti di questi operatori si erano sposti con magari la costruzione di nuove sedi piuttosto ambiziose, piuttosto anche piacevoli da vedere, ma che si sarebbero dovute ammortizzare negli anni seguenti. È ovvio che calando i volumi di vendita, calando anche un pochettino i margini di guadagno, molti di questi si sono trovati in difficoltà. Adesso si dice, secondo alcune stime, che più del 50% di questi concessionari lavorano in perdita, e ripeto, questo è grave soprattutto per coloro che nel frattempo avevano affrontato degli investimenti molto importanti e che in questa fase non sono più in grado di rientrare, e quindi ci sono parecchie chiusure, ci sono concessionari che passano la mano, ci sono fallimenti, come avviene in tutti i settori, non dimentichiamocelo. Forse qui siamo in un settore che era meno abituato a vivere situazioni di crisi e che peraltro già era al centro di un passaggio spesso difficile da una generazione all'altra, perché non dimentichiamo appunto che le concessionarie in Italia sono quasi tutte imprese familiari. Cosa chiedono principalmente i concessionari alle case produttrici in questo momento? Chiedono più libertà d'azione, nel senso che negli ultimi anni le case hanno un pochettino spadroneggiato e hanno costretto i concessionari a portarsi in casa un sacco di macchine che poi in realtà non trovavano un numero di clienti corrispondente, e quindi questi concessionari, per raggiungere questi obiettivi sempre più ambiziosi fissati dalle case, che a loro volta avevano da tenere in piedi fabbriche piuttosto importanti, dicevo, le hanno provate un pochettino tutti, quindi chilometri zero, offerte promozionali, insomma di tutto per cercare di smaltire questi piazzali che altrimenti ovviamente avrebbero gravato anche dal punto di vista dell'immobilizzo finanziario. A questo punto il giochino si è rotto, noi abbiamo intervistato su quattro ruote forse il decano dei concessionari italiani, che è anche un ex grande campione di ciclismo, che si chiama Fiorenzo Magni, il quale con i figli ha chiuso l'attività dopo addirittura più di 50 anni di lavoro, dicendo che questo è un mestiere che non si può più fare perché si lavora in perdita. È stata un'intervista che ha creato un grande clamore, proprio perché c'era il racconto vero di un uomo che dopo tanti anni ha deciso che, insomma, lavorare in perdita semplicemente per centrare gli obiettivi di case sempre più arroganti non era più il caso di farlo. E devo dire che in questa situazione si trovano tante imprese, e che oggi riuscire a guadagnare soldi vendendo automobili è diventato un'impresa nella quale non tutti riescono, tant'è che, come dicevo, c'è una selezione molto ma molto forte. E allora, direttore, per concludere, qual è il futuro delle concessionarie italiane? C'è un modello dall'estero che può essere importato, oppure ci sono possibili eventuali soluzioni che magari dal punto di vista legislativo potrebbero aiutare la categoria, secondo lei? Ma diciamo che il futuro è evidentemente di concessionari sempre più specializzati e che abbiano anche un raggio territoriale sul quale agire sufficientemente ampio per poter appunto ammortizzare gli investimenti. Di sicuro non basta più essere il famoso venditore di auto, il quale semplicemente ordinava alla casa il numero di macchine che vendeva. Adesso si guadagna più che sul nuovo, soprattutto sull'usato e sull'assistenza. È ovvio che per farlo bisogna essere attrezzati, bisogna avere dei venditori che sappiano fare il loro lavoro, bisogna avere una struttura finanziaria adeguata, insomma bisogna avere una vera e propria impresa, e qui serve un salto di qualità che evidentemente non tutti sono stati in grado di fare. Poi è ovvio che c'è chi è più fortunato perché magari ha una casa che in questo momento sta andando per la maggiore, c'è chi lo è meno perché si trova invece per le mani modelli che nessuno vuole, e quindi è un mestiere difficile in cui gran parte del successo dipende dalle proprie decisioni, ma una buona parte del successo dipende anche da decisioni altrui, e questo ovviamente complica le cose, perché in una situazione economica già così difficile devo dire che le variabili da maneggiare sono veramente molte. Grazie allora al direttore di Quattro Ruote Mauro Tedeschini, appuntamento in edicola ovviamente con Quattro Ruote, e con lei direttore domenica prossima sempre qui su Radio 24. A presto. Grazie, buona domenica. E dunque, vi avevamo annunciato che era una puntata un po' speciale questa di Strade e Motori. Si parla molto oggi di guida e di ambiente. Adesso parliamo di guida sostenibile, un vero e proprio imperativo per tutti gli automobilisti. Se nella prima parte della nostra trasmissione vi abbiamo dato qualche consiglio pratico per cercare di economizzare, in questa seconda parte vi presentiamo invece un software che misura il livello di ecosostenibilità della guida. Si chiama EcoConduit e lo ha prodotto Bureau Veritas Italia. Noi abbiamo in linea l'ingegner Luigi Casale, proprio del Dipartimento Energia Ambiente. Buona domenica, grazie per essere con noi, ingegnere. Buon pomeriggio a tutti. La prima domanda che le facciamo è: come funziona questo software? Il software è appunto un simulatore di un'automobile utilitaria che simula le condizioni di funzionamento della stessa mentre il guidatore usa normalmente la propria vettura. A fronte di questa prima simulazione vengono date poi delle indicazioni specifiche appunto per migliorare l'efficienza e la prestazione alla guida, e alla fine di questo rapido corso che dà indicazioni sulle migliori appunto tecniche per risparmio alla guida, viene fatto un test finale che consente di dimostrare quali sono gli improvement, diciamo così, i miglioramenti ottenuti. Ingegnere Casale, ma conoscere quanto si inquina ci aiuta anche ad inquinare di meno? Assolutamente sì, non è banale. Noi spesso, ormai tutte le macchine moderne hanno un indicatore dei consumi medi e dei consumi specifici, però quel solo indicatore non ci dà informazioni su che cosa andrebbe fatto per abbassare la media e magari anche abbassare il livello istantaneo di consumo. Questo corso dà delle indicazioni generali sulla manutenzione della vettura, quindi in termini di manutenzione dei pneumatici, delle gomme, finestrini o servizi in funzione, ma anche in termini di accelerazione e decelerazione e appunto volume e diciamo numero dei giri del motore che occorre mantenere per avere una guida efficace ed efficiente. E a quali risultati si può giungere dopo questo corso? Ma guardi, noi abbiamo un campione piuttosto esteso per esperienze che sono state fatte in altri paesi. In Italia stiamo lanciando questo servizio appunto da poco. I risparmi, diciamo così, attestati dal corso, e quindi diciamo il delta fra una corsa, diciamo così, in condizioni normali e una corsa, diciamo così, in condizioni istruite, è dell'ordine di un 20-30% in termini di consumi di benzina. Sugli inquinanti diciamo che i numeri sono proporzionali, anche se non è proprio una correlazione diretta fra consumi ed emissioni, per tutta una serie di motivi che non sono piuttosto tecnici. Certo. A chi vi rivolgete? Ci rivolgiamo naturalmente a chi vuole intanto scoprire quali sono diciamo i migliori comportamenti della guida. I potenzialmente interessati sono tutte le aziende che hanno grandi flotte aziendali, chi si sposta anche magari professionalmente per motivi di lavoro in macchina o in furgone, o che comunque ha gran parte della propria attività su un autoveicolo, chi fa molti chilometri, e quindi ci rivolgiamo direttamente ai mobility manager, per esempio, di grandi aziende, ma anche a società di servizio che hanno la gran parte dei propri dipendenti che guidano macchine con costi aziendali anche proporzionati naturalmente ai consumi che mantengono, ecco, che hanno. Ingegner Casale, per concludere vogliamo dare anche un vostro riferimento magari online dove vi si può trovare su internet. Ah certo, certamente. Bureau Veritas è una società che ha 20 uffici in Italia, quindi in tutte le principali città. Cito ad esempio Roma, Bologna, Genova, Parma, Milano, Bari, eccetera, eccetera. Il nostro sito è www.bureauveritas.it e su questo sito ci saranno a breve tutte le indicazioni specifiche dei corsi che noi terremo presso di noi, ma naturalmente siccome questo simulatore è completamente trasportabile, nel senso può essere dislocato presso il cliente, naturalmente anche questo è un punto di vantaggio che può essere concordato di volta in volta con diciamo le funzioni aziendali interessate. Ingegnere, costa tanto? Ma il simulatore sì, è costato tanto in termini di lavoro e in termini anche di investimento che è stato fatto. E al cliente? Naturalmente noi non stiamo svolgendo, il nostro non è una vendita, certo, di simulatore, ma è una offerta di servizi. Diciamo che le classi sono classi da 7, 8 fino a 10 persone, e quindi diciamo a persona il costo si aggira intorno ai 150-100 euro per un corso che dura una mezza giornata, quindi del tutto ragionevole tenendo conto dei immediati ritorni economici che si ottengono dal saving successivo al corso. Si ammortizza facilmente, insomma, un corso del genere, sì, per un'azienda. Assolutamente. Noi ringraziamo l'ingegner Luigi Casale del Dipartimento Energia e Ambiente di Bureau Veritas Italia, ospite di Strade e Motori. Buona domenica, ingegnere, grazie ancora, a presto. Grazie, arrivederci. E siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento di Strade e Motori. Grazie per aver scelto di viaggiare con noi, grazie a Fabio Cantadori per averci guidato in regia. Radio24.it, il sito per riascoltare tutte le nostre interviste e gli approfondimenti. Strade e Motori, @radio24.it, invece l'indirizzo email per entrare in contatto con noi. Adesso gli approfondimenti del pomeriggio sportivo di Radio 24, prima l'informazione delle 17. Da Massimo Di Scienza l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Noi ci risentiamo domenica prossima.